status update and hang out forever with me. SMS sono di passaggio. Trash bean spam, tell me what's up and hang out forever with me. And hang out forever with me. Mattina come le altre, forse siamo di ottobre. Dimmi a cosa stai pensando, sono in linea. Ombre, il tempo scivola in avanti, non si ferma a pensare. Sei scordato pure di avvisare. Questo momento è proprio come deve essere. Sentimenti rilevanti come tessere. Di un mosaico indefinito, tira il fiato, stai munito. Primo, ultimo di un giorno invelenito. Lasciami un messaggio. Tweet, chat, status update, and hang out forever with me. SMS sono di passaggio. Trash bin spam, tell me what's up, and hang out forever with me. And hang out forever with me. Brilla, sa quel che faccio, quel che dico. Il cosmo gira e guarda quanto sono fico. Perché serve e serverà ogni porco mio sospiro. Succhia la mia vita come un vampiro. Sul mio tavolo c'è un vecchio floppy disk ingiallito. Chissà cosa avrà pensato mentre andava bollito. C'è drive, non c'è supporto più per leggere la memoria. Vai perduti, fine della storia. Lasciami un messaggio. Tweet, chat, status update, and end up forever with me. SMS sono di passaggio. Trash bin spam, tell me what's up, and end up forever with me. And end up forever. SMS, quanti giorni, quanti via vai? SMS, posta senza cedere mai. SMS, chi potrà comprendere i miei miseri guai? Sono vittima di indifferenza acuta da miracci. SMS, lasciami un messaggio. Tweet, chat, status update, and hang out forever with me. SMS, sono di passaggio. Trash bin spam, tell me what's up.